ci sono ora senza telefono. Sì, si sente benissimo, eh? Sì, per sentire si sente bene. L'unica cosa non sappiamo quanto è il ritardo generale. Allora, io sentivo e cercavo, diciamo, mi sembrava di andare a tempo su quello che stavi facendo, no? Cosa dici? Però io non so tu cosa sentivi. Si sente benissimo. È difficile andare a tempo. No, si sente benissimo. Si sente molto bene, capito? Però è difficile andare a tempo. No, non lo so, io andavo a tempo su te, hai capito? Cioè, su quello che sentivo. Ho paura. Adesso facciamo una... Non lo so. Sì. Ah, capito. Allora, cioè, sai diciamo, che cosa penso? Come? Che sia il problema dei driver su Windows, perché io ho sempre provato... Pensavo, siccome all'inizio ho provato con Windows, no? Poi il discorso era tutto problematico con il mi sono dedicato al Mac e sì. ho trovato questo per il Mac, ma mi sono sempre accorto che nelle altre casi utilizzava dei driver. Allora, se tu resta collegato, che sei sul Nimbot 2050. Ma prova a collegarmi con un altro sistema e sì, vediamo se dipende tu da sei Windows. Su Windows tu... Chiaro? Sì, ma tu sei... Ok. The Windows, ok. Oggi tu sì, Windows. Perché okay, la moglie ha portato il PC a scuola. Esatto, però Windows ha bisogno di driver ASIO o qualcosa. E penso che col Zen Jam non lo prenda. Lasciami provare a scollegarmi e collegarmi con l'altro programma, che non sento questa latenza. Un attimo, eh? Sì. Mm-hmm.